Ancora di nuovo in diretta con la Val di Susa, pronto? Sì, ti sento pienissimo, ciao. Ciao, allora siamo rimasti a tre quarti d'ora fa con la manifestazione che aveva raggiunto il cantiere e ci girava intorno, poi? E niente, poi la marcia sta proseguendo sui sentieri che praticamente dal Fortino praticamente arrivano a Chiomonte, dove c'è il campo base, il campeggio organizzato in queste settimane. Insomma, c'è tantissima gente, questa è una delle caratteristiche principali di questa manifestazione. Da dietro si vede proprio un lunghissimo serpentone che si sviluppa un po' per tutti questi sentieri che abbiamo percorso e che vi abbiamo anche raccontato nei giorni scorsi, durante le molteplici iniziative che ci sono state, sia quelle di giorno che quelle notturne, insomma. Ed è una bella manifestazione, una bellissima risposta, insomma. Qui passeggiando si commentava anche con un po' di persone rispetto alle dichiarazioni che ci sono state nei giorni scorsi, di incutere timore, di dividere i manifestanti, di, insomma, invitare anche le persone a rimanere a casa. E questa è una risposta bellissima fino a questo momento, insomma. La manifestazione, io sono in testa quasi alla manifestazione, e entro una ventina di minuti raggiungeremo appunto il campeggio, girando intorno alla centrale elettrica che è ormai sotto assedio, diciamo così, da una quindicina di giorni. E il campeggio è un campo base importante, su questo pesa una minaccia di sgombero da parte del ministro Maroni, che insomma ha annunciato in pompa magna il fatto che comunque tra stasera e domani si sarebbe chiuso con questa esperienza, e poi dal campeggio, insomma, si arriverà fin sul paese, un ultimo sforzo per poi tenere un comizio, un'assemblea popolare di fronte al comune, insomma. Senti, di questo parlavamo anche prima con Paolo. Sento pochissimo, però, scusami. Dicevo, di questo parlavamo anche prima con Paolo lì della Valle. Ci diceva che c'era, sì, ci sottolineava l'aspetto gioioso di questa risposta al ministro Maroni, e a quanti con la criminalizzazione, con i pretesti e con l'uso dei media, eccetera, tentano di dividere il fronte di lotta. Appunto, sottolineava proprio la gioia. Lui ha parlato di una risata che seppelliva, insomma, evocando il noto adagio, diciamo, che seppellisce le parole del ministro, ed è la migliore risposta possibile. Però dico, con per esempio, cioè anche questo invito del Partito Democratico a starsene a casa, dico, lì c'è una realtà di base molto, molto articolata, molto particolare, però mi sembra che su questo profilo, sotto questo profilo, la risposta sia univoca, cioè non accettare questo tipo di provocazioni e continuare con la mobilitazione, o no? Sì, guarda, questo è stato pure un argomento che ieri all'assemblea del campeggio è stato discusso, ieri e l'altro ieri, in maniera molto, molto approfondita, insomma, anche perché appunto ci sono tantissimi, centinaia e centinaia di compagni e compagne che vengono da fuori, insomma, che hanno partecipato e sostenuto questa esperienza, tra l'altro aiutando anche un po' i comitati a respirare, insomma, dopo 40 giorni di resistenza abbastanza tenace, dura, fatta ogni giorno di iniziative. E si discuteva proprio di questo, insomma, cioè un tentativo di criminalizzazione che, tra l'altro, sui giornali locali non vi potete immaginare di che cosa si parla, insomma. Per esempio, nei giorni scorsi si diceva, anche ieri ci sono state delle perquisizioni, l'altro ieri ancora, insomma, tutte cose che dal punto di vista giudiziario sono abbastanza insignificanti e che venivano invece proposte sulla stampa con dei titoli incredibili, insomma. Sembra che qui ci sia gente pronta alla guerra, invece ci stanno delle persone che stanno combattendo una battaglia giusta. E per dirti, questa cosa del clima anche diciamo gioioso, di fiducia, soprattutto di positività rispetto alle indicazioni di lotta che vengono date, ieri sera con l'arrivo anche di tantissimi altri compagni e compagne da fuori, insomma, c'è stata fuori dei cancelli della centrale l'ennesima festa, l'ennesima festa, insomma, con le bande che suonavano, con persone di un po' di tutte le età che anche prendevano in giro questi Robocop che stavano appollaiati sui sentieri, insomma, costretti a dare le spalle ai manifestanti perché bersagliati dai laser, dagli insulti, dalle battute, anche dalla vivacità e dalla gioia appunto delle persone, dalla battitura, insomma, della battitura che è questo metodo, insomma, che li tiene incollati alle recinzioni, non facendoli riposare, facendoli lavorare, sempre stare allerta, insomma, è anche questo un modo di combattere questa battaglia, insomma, cioè snervare, per così dire, le forze dell'ordine che sono qui, ricordiamo, a difesa di un progetto di carattere mafioso, insomma, questo è l'elemento centrale, insomma. Quindi questa manifestazione oggi è una risposta formidabile, perché dice che sono i comitati che decidono quali sono le forme di lotta più idonee, insomma, quali sono i tempi di questa lotta, e non se li fanno certo dettare dai politici e dai giornalisti che stanno scrivendo delle cose assurde, insomma. E d'altra parte, sul diciamo, nonostante queste continue mobilitazioni, diciamo, il fronte avverso non mostra inclinature, pare un muro di gomma, salvo l'unica considerazione che ho sentito fare è quella del fatto che costasse troppo la costruzione, mi sembra proprio in definitiva l'arma di pressione più utile, come quella che stanno facendo i compagni in questi giorni. Sì, il fatto dei costi è una cosa incredibile, insomma, nel senso che costano tantissimo. Tra l'altro c'è anche da dire che questi signori non pagano, tra l'altro, cioè sono morosi, diciamo così, non pagano gli alberghi, ci sono degli alberghi che ancora oggi stanno ricevendo i pagamenti dell'assedio di Venaus, lo ricordavo nella corrispondenza di ieri, ci sono i benzinai che non gli pagano i buoni benzina del Ministero degli Interni, insomma, ogni giorno poi, confrontandoci con le persone, escono fuori delle chicche abbastanza incredibili, insomma. Infatti nel mese di agosto, quando si svilupperà poi tutto il presidio, insomma, che andrà avanti fino al 31 agosto, sicuramente, insomma, si cominceranno anche a prevedere iniziative nei confronti della struttura logistica che supporta questo, diciamo così, questo presidio militare, insomma, e quindi appunto gli alberghi, le mense, insomma, anche per denunciare un po' i collegamenti e gli interessi economici che ci stanno dietro. Va bene, senti, come rimaniamo? Ci sentiamo tra un ci po'? Ci sentiamo, insomma, dai, almeno fra una quarantina di minuti, nel senso che qui la camminata è ancora abbastanza... Sento salite sotto la tua voce. Sì, sì, siamo ancora nella fase di salita, insomma. Quindi... Vabbè, il tempo com'è? Giusto note di cronaca. Bellissimo, come vabbè. Tutto l'ambiente qui intorno. Ti credo, va bene. Dai, grazie, ci sentiamo dopo. Ciao, ciao. Ciao.